difeso questa partita e so che è veramente il suo pensiero, ma cosa pensiamo noi degli OGM? Guardate, il mondo del scientifico è spaccato a metà, c'è chi dice che fanno bene, si dovrebbero consumare tutti i giorni a orari regolari, e c'è chi dice che bisogna starci distanti perché c'è anche la contaminazione a distanza. Io dico semplicemente una cosa: piantare semi che non daranno vita a semi significa consegnare l'agricoltura alle multinazionali. E un territorio come il Veneto, che ha 350 prodotti tipici, o come l'Italia, che ne ha 4.700, non può permettersi questo. La partita degli OGM è una partita cogente, è una partita comunque che ci riguarda da vicino. Non diciamo che gli agricoltori guadagnano di più perché ci sono gli OGM, perché dove ci sono gli OGM, dove sono autorizzati, gli agricoltori fanno la fame. Ricordiamoci piuttosto che abbiamo dei mais autorizzati a livello europeo e che rappresentano solo forse il 2% della produzione di mais in Europa, ma ricordiamo che il nostro grande punto di forza è quello di avere la tipicità di